Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a... Ben arrivati a Per fare un branco ci vuole un lupo. Perfetto, molto brava, vedo che ti vedo molto più preparata rispetto all'inizio, devo dire. Beh, piano piano sto imparando almeno il nome. È già una gran cosa, nel senso... Sono soddisfazioni, iniziano a essere soddisfazioni, sì sì, in effetti sì. Già. Va bene, detto questo, buongiorno a tutti, benvenuti a questa, questa puntata, insomma, di questa settimana in cui parleremo di, una, di un argomento un po' delicato, se vogliamo. Molto delicato. Beh, sicuramente inizieremo con un argomento che vede delle persone schierate per i sì, i contrari e i favorevoli, come sempre. Solo che contrari e favorevoli, in questo caso, mettono di mezzo una vita. Sì, più di una in realtà, perché in realtà mettono proprio a dura prova un vero e proprio ecosistema, se vogliamo, perché parliamo di un argomento che in Italia ha avuto grande scalpore in queste ultime settimane, che era la proposta di legge di una persona politica, ovviamente, quindi come caro politico non ha alcuna visione della realtà delle cose, sono un po' polemico sui politici ovviamente, come avete ben identificato, che voleva appunto promuovere l'abbattimento di una specie a noi molto cara, che è proprio il lupo. Abbattimento selettivo, le parole hanno un loro perché. Abbattimento selettivo. Sarebbe interessante capire, secondo la lungimiranza di questo personaggio, su che cosa si basava la selezione. No, ma poi è carino poter pensare che al posto di dire abbattimento, quindi uccisione di una specie, si parla di, come si dice, abbattimento selettivo. No? È molto carino, così almeno sai, passa un po' è un po' come il termine tutto italiano della missione di pace, no? Che dici, vado in missione, sì, con gli armamenti, con i carri armati, con i fucili, eccetera, a sganciare bombe. Però vado per pacificare, quindi sono in missione di pace. Allora, se sei in missione di pace vai senza armi. Perché mi ricorda i Blues Brothers questa cosa? È vero, sono molto... vedo la luce! Vabbè, detto questo, quando era dentro chiesa con James Brown che canta, dice vedo la luce, eccetera, fantastico. Siamo in missione per conto di Dio. Appunto. Fantastico. E al di là di quello, sì, quindi c'era stata questa proposta. Alla base c'è sempre comunque l'idea che qualcuno abbia ragione e debba esportare la ragione. Ah, certo, indubbiamente. Cosa è successo? È successo che perché ci siano stati questi presunti aggressioni attacchi da parte del lupo cattivo, che ci insegnano a essere una bestia selvaggia cattiva che dilania. Si è anche mangiato Cappuccetto Rosso. Si è anche mangiato quella quella bambina di Cappuccetto Rosso, e gli è rimasta pure sullo stomaco. No, nel senso, andiamo in onda in un orario che... No, ho detto quella, stronata. Era quella... stronata, inteso. Era okay. Stronata. Era stronata. Va bene. Sembra un arrampicarsi sugli specchi. In sostanza, cosa è successo? È successo che ovviamente hanno proposto l'abbattimento di questi lupi, proprio perché, siccome gli allevatori, poverini, non possono stare dietro ai propri greggi, quindi non li possono proteggere, quindi eccetera, ovviamente questi lupi arrivavano e predavano, uccidendo centinaia di capi, pecore, mucche, eccetera. Addirittura si narra anche che questi lupi abbiano cercato di attaccare l'essere umano e i cani che lo accompagnavano, insomma. Beh, ci sono stati degli articoli di giornale dove questi uomini, che poi, vabbè, io sono un po' polemica perché poi li vedi su mezza età, pancetta e tutto quanto, però brandendo un bastone sono riusciti a riportare la giustizia nel bosco. Allora, diciamo che da una parte esistono sicuramente le ragioni degli allevatori, che comunque basano sull'allevamento tutti i loro ingressi, quindi indubbiamente è la loro professione. Sì. Quindi oltre che, mi auguro, a volte viene un po' meno, ma io mi auguro che ci sia sempre l'amore per gli animali stessi che allevano. Sì, vabbè, questo lasciamolo perdere. Però nel senso parliamo dei fatti meglio, perché sennò entriamo poi in una polemica ovviamente per personale piuttosto che oggettiva, invece l'oggettività fa sempre la sua parte. Decisamente ci sono due schieramenti. Oggettivamente queste persone, ovviamente gli allevatori, hanno questi animali che vengono chiamati animali da profitto, proprio perché creano un profitto. E hanno delle perdite. E hanno delle perdite, perché nel momento che ovviamente un lupo, che è un predatore, non so se anche tu che mi stai ascoltando lo sapevi, il lupo sì è un predatore, quindi è chiaro che... Non mangia l'insalata, è chiaro che... Se non come ripieno. Sì, esatto, dai. Quindi è normale che a un certo punto, è ovvio che se un lupo torna in un certo tipo di territorio in cui ci sono queste 15-16 pecorelle messe lì senza nessuno che le guarda, e beh, grazie, il lupo ringrazia e dice: beh, aspetta un attimo che adesso ci penso io a... dico il bavagliolo, forchette coltello. Come minimo, insomma, è normale e fa parte proprio della sua, del suo essere appunto un predatore, avere la sua natura. Ammetto anche che ovviamente per gli allevatori questa può essere una perdita facilmente risolvibile, senza dover per forza brandire un fucile e dover uccidere, come già abbiamo fatto per centinaia di migliaia di anni noi esseri umani, ma semplicemente adattando dei sistemi diversi. Vi sarà mai parso l'idea, che già solo il nome lo dice, pastore tedesco? Pastore maremmano? Pastore belga? A che cavolo servivano questi pastori? Non erano per la conduzione, come ad esempio i border collie, ok? Erano per la guardia del gregge. La guardia da chi, secondo voi? Dei malintenzionati. Dei malintenzionati e dei predatori. È chiaro che se questo viene meno, quindi abbiamo il nostro fuffino bello a casa, e l'allevatore dice no, perché è giusto che l'animale, il cane, che è stato creato per lavorare, attenzione, lavorare non vuol dire che non gli piaccia, perché al cane magari ti suonerà un po' strano, gli piace lavorare, si diverte un sacco, nasce per quello, che lavora non è soggetto a torture e difficoltà. Il cane che lavora è nato per quello, quindi semplicemente dà sfogo alla sua natura e alla sua attitudine. O più, oggi abbiamo la tecnologia che ci accompagna, per cui ci sono delle strutture che si possono mettere proprio per difendere queste prede inermi nei confronti dei predatori, ovviamente. Quindi ci sono delle possibilità. Quindi, caro governo, al posto di... esistono paletti, recinzioni. Esatto. Quindi, caro governo, al posto di no, abbattiamo. Quindi c'è un problema, cosa facciamo? Uccidiamo. Pensa se noi dovessimo, appunto, come basta guardare per i social, quanti problemi ci sono con la politica, quanti ne dovremmo abbattere. Eh sì, c'era questo articolo interessante che ho commentato su Facebook, nonostante io tendenzialmente non sia polemica, contrariamente a qualcun altro. Ho commentato recentemente, perché appunto questo articolo citava moltissime imprese hanno dovuto chiudere per colpa del lupo. Beh, da quello che so io, molte più imprese hanno dovuto chiudere proprio per colpa della tassazione eccessiva, però non mi sembra per che... colpa dei magheggi delle banche. Quindi pensate a quanti ne dovremmo abbattere. Sì, non mi sembra che però si sia dato il via libera alla caccia, all'abbattimento selettivo. L'abbattimento selettivo. Io questo lo proporrei, sinceramente mi piacerebbe molto, ma so che questa cosa purtroppo non può essere fatta. L'abbattimento dei politici a Montecitorio, secondo me, guarda che potrebbe essere una cosa molto interessante. Sì, ma non da molto promuovere. Divertente. Basta. Da lontano, vabbè. Esci dal tuo. Poi adesso mi chiameranno e diranno che solo facevo parte dell'ISIS perché volevo fare. Vabbè, a parte quello. Comunque, scherzi a parte, ovviamente, un abbattimento di un predatore. L'abbattimento dei predatori non provoca altro che uno sconvolgimento dell'ordine naturale delle cose. È chiaro che la natura non è tutta rose e fiori. È chiaro, quindi gli animali che vivono in natura non è che siano buoni buonini e quindi funziona tutto perfettamente. La natura, come amo semplicemente spesso dire, è ferocemente equa, quindi c'è un equilibrio molto, molto sottile e è molto feroce anche questo equilibrio, per cui è chiaro che non si parla di allora il lupo è buonino. Il lupo è lupo, è la sua natura, è predatore e ovviamente si mangia e si nutre di prede. Allo stesso tempo questo discorso legato al hanno aggredito l'essere umano eccetera eccetera è una grandissima baggianata, indubbiamente, per un semplice fatto, perché se queste persone che citano questi fatti andassero a documentarsi un pochino, quindi leggessero anche semplicemente un libro, questo strano diciamo connubio di pagine che non serve solo per mettere in pari il tavolino, esatto, si renderebbero conto che il lupo in realtà è molto schivo, molto molto schivo, e non si avvicinerebbe mai a centri abitati piuttosto che a esseri umani, piuttosto che a diciamo questi individui. Beh, inoltre il lupo stesso gli farebbe pure un po' schifo mangiare l'essere umano, perché è indigesta la carne, è indigesta l'essere umano. Ma, a proposito di questo, voglio no, però okay. Immagino, nel senso, poi vedere certe persone deve essere proprio irrancidita. Rispetto a questo voglio condividere con voi un mio ricordo, una mia emozione incredibile. La prima volta che ho visto un lupo, stavamo andando con l'università a fare una battuta di censimento, viene definita, quindi vai a contare quanti animali esistono su quel territorio, in quella determinata area. Nello specifico era un censimento agli ungulati, quindi poco aveva a che fare con il lupo, se non come contorno. Durante questa battuta, mentre stavamo andando su in punta in questa montagna che non cito proprio per evitare di scatenare un ulteriore bracconaggio, stavamo andando su in questa montagna, siamo rimasti tutti e quattro fermi, io e i miei quattro compagni e i miei tre compagni di università, fermi, immobili, perché abbiamo intravisto questa sagoma quasi sul crinale della montagna che era a fronte a noi. E l'abbiamo visto ed è stata un'emozione, perché vivi proprio l'esperienza di il lupo ti sta regalando la sua presenza, ti sta onorando di vederlo. Non siamo riusciti, la cosa fantastica è che eravamo talmente emozionati che non siamo riusciti in quattro a prendere i binocoli che avevamo appesi al collo e guardare da vicino. L'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto, abbiamo visto le movenze e successivamente siamo andati a guardare le impronte, perché non so se tutti lo sanno, ma quando ci sono delle impronte e si fotografano delle impronte, buona regola è mettere vicino un oggetto d'uso comune per dare un'indicazione delle dimensioni. Ad esempio, sì, si fa anche sulle scene del crimine. Ah sì? Eh sì, buona esposizione. Si mettono gli accendini BIC anche. Sì, tendenzialmente film. Quando arriva la scena del crimine, diciamo la scientifica, poi i vetrini, eccetera. Però volendo, nel caso, si può mettere un oggetto di uso comune. Ah ok, io sapevo solo per le impronte degli animali. Eh no. E comunque sì, ed è risultato poi essere proprio il lupo. E noi eravamo esaltati ed emozionati allo stesso tempo, perché lui in un attimo ha tirato su questo musone, ha annusato un po' l'aria, si è accorto di noi nonostante fossimo a chilometri, ci ha guardato ed è andato, ed è scollinato dall'altra parte, non si è più fatto vedere. Questo è per rendervi proprio l'idea di quanto sia schivo come animale, di quanto ormai abbia imparato che l'uomo non è amico ed è da tenere alla larga. Inoltre c'è un discorso da fare in cui io ammetto anche che ci possono essere state qualche aggressione. C'è da fare anche un discorso molto particolare sugli ibridi, che sono appunto un incrocio tra appunto più specie, se vogliamo, e soprattutto i cani selvatichiti. I cani selvatichiti sono appunto cani, ahimè, sono una nostra creazione, sono una nostra, tutta nostra. E il cane selvatichito è sicuramente estremamente, ed è molto più pericoloso rispetto a un lupo, per un semplice fatto: il cane, per la sua natura, visto che è stato creato dall'uomo, ha innata un certo tipo di docilità. Docilità vuol dire voglia di compiacere l'uomo, quindi non ha timore tendenzialmente dell'uomo stesso. Una pericolosissima confidenza, nonostante magari non abbia mai visto l'uomo di per sé. Quindi sì, si avvicina. Considerate che c'è una netta differenza tra addomesticare e domesticare, così ve la spiego, vi do anche un supporto scientifico, che queste persone, ovviamente ieri ho avuto una discussione ampia su Facebook e poi ho deciso, mi sono ritirato, perché di fronte a... In realtà la discussione era mia, in cui sì, mi sono infilato lui. Di fronte a cotanta ignoranza, ignoranza palese. Nel senso, se doveste andare a vedere questo post, non leggereste neanche in italiano, perché non è scritto neanche in italiano. Quindi... Diciamo che bisogna partire da una base comune, che quantomeno è la lingua, almeno mettersi d'accordo. Almeno capire che cosa scrivere. Vabbè. Che lingua parliamo? Ma parliamo al di là di quello, quindi la differenza qual è? Addomesticare, quindi non so se avete mai sentito il leone addomesticato, la tigre addomesticata, eccetera. Addomesticare significa prelevare individui in natura, quindi natura selvaggia, e abituale alla presenza dell'uomo, semplicemente. La prole avrà le caratteristiche di nuovo selvatiche, ovviamente. Domesticare è una cosa completamente diversa. Domesticare significa modificare adattare per caratteristiche morfologiche, comportamentali e genetiche quello stesso individuo, in modo tale che la prole avrà già una naturale, affinità con l'essere umano stesso. Quindi questa è la netta differenza tra addomesticare e domesticare. Quindi il cane è un animale domestico, il leone è un animale, può essere un animale addomesticato, quindi sono due cose totalmente differenti. E poi c'è anche l'ammansimento. Poi c'è anche l'ammansimento, vabbè, ma adesso senza entrare troppo nel dettaglio, ad esempio, nei falchi si parla di ammansimento, nel senso, quando venivano prelevati gli animali, ora è assolutamente vietato, ma quando gli animali venivano prelevati in natura, venivano ammansiti. Ahimè, prima di Federico II di Svevia, la tecnica dell'ammansimento era molto cruda, vista con i nostri occhi, ma anche vista con gli occhi dei rapaci, in quanto venivano cigliati, quindi venivano cucite le palpebre insieme per evitare che l'animale vedesse, fino a totale ammansimento, questo è quello che citava. Adesso, vabbè, i rapaci si tranquillizzano con un cappuccio, semplicemente. No, però mi fa pensare che, dico, tu pensa quanto noi abbiamo stravolto l'ordine naturale delle cose. Non solo l'abbiamo stravolto per i nostri interessi, ma addirittura adesso ci permettiamo anche di avere, appunto, persone che legiferano su abbattimenti selettivi, pensando che la vita di un animale sia meno importante della vita di un essere umano. Io personalmente non lo condivido assolutamente. Per me ogni vita ha lo stesso valore. Mi ricordo, e questo vi cito questo piccolo racconto, in cui, quando ero ancora in polizia, molto spesso gli istruttori, altri conduttori cinofili, eccetera, polizia di Stato italiana, ci tengo a sottolineare, mi comunicavano il fatto che io ero cinofilo antiesplosivo, ma manda il cane a cercare l'esplosivo. Almeno, voglio dire, se salta per aria, salta per aria solo lui, non salti per aria te. Per me è stata una cosa sempre di pessimissimo gusto, e io ho deciso in tutta la mia carriera di legare la mia, diciamo, il mio destino a quello del mio cane antiesplosivo, per cui se lui per caso faceva qualcosa e saltava per aria, ci sarei saltato anch'io per aria, perché l'ho sempre guardato e ho sempre pensato, ho sempre detto: caro mio, il mio destino è legato al tuo, alla tua coda. Alcune persone dicono meglio mille cani che un essere umano, ma io questa cosa non la condivido assolutamente. Meglio nessuno dei due, cioè, nel senso, meglio che sopravvivano tutti e due. Magari traspare dal fatto che abbiamo 5 cani. Potrebbe essere un dato significativo, sicuramente. Quindi, al di là di quello, quindi è un discorso molto ampio. Fortunatamente abbiamo scoperto che la legge non è passata, quindi la prima battaglia è stata vinta, la guerra è ancora lunga e forse non ne vedremo neanche noi la fine, perché sono ormai millenni che si parla di questo tipo di discorso. Potremmo legare il discorso della vivisezione, potremmo legare tantissimi discorsi sul quale in questo momento diventa veramente difficile, anche perché il discorso che per ora si è fermata, appunto, questo progetto di legge che riguardava l'abbattimento selettivo a livello legale. Tutto quello che è il bracconaggio non si ferma neanche un po', tant'è che comunque di lupi uccisi e quant'altro se ne sono trovati, purtroppo. Eh sì, perché, come dicevo anche in questo periodo, secondo me bisogna fare un doppio lavoro. Un doppio lavoro vuol dire un doppio lavoro di repressione e prevenzione, come dicevamo in polizia. Repressione vuol dire: ok, adesso è successo questo, il rischio di questa legge, ok, reprimiamola, vuol dire manifestazioni, vuol dire muoviamoci, eccetera, eccetera. Prevenzione significa solo informazione, educare e acculturare le persone in modo tale che possano comprendere meglio i cicli naturali della natura. Con ciò non vuol dire che tutte le persone debbano essere vegetariane e vegane. Noi, ad esempio, non siamo né vegetariani né vegani, siamo carnivori. Siamo onnivori. E allo stesso tempo questo non è significativo, nel senso inteso, non è detto che le persone debbano per forza diventare vegetariane, eccetera. Vuol dire semplicemente il rispetto della natura, il rispetto dei cicli naturali, il rispetto delle prede, il rispetto dei predatori. Ricordatevi che le prede hanno lo stesso valore, la stessa importanza dei predatori. Quindi non è la povera preda che viene predata dall'astuto e cattivo predatore. Beh, questo, guarda, se guardi un qualsiasi documentario, del quale comunque io sono molto appassionata, uno dei miei miti è assolutamente Piero Angela in tutto e per tutto. Vabbè, signora. Il signor Piero Angela. Ci sono cresciuta guardando i suoi documentari, però in qualsiasi documentario, soprattutto fino a un po' di anni fa, adesso un pochettino la sensibilizzazione sta facendo la sua, esisteva la povera gazzella, guardate gli occhi della spaurita e povera gazzella mentre non ha più scampo, questo povero cucciolo sta per essere dilaniato dal feroce leone, però il leone aveva tutti i suoi cuccioli dietro, quindi è tutto ferocemente equo. Sempre, sempre. Quindi non possiamo schierarci dalla parte, soprattutto, a maggior ragione, tutte le persone che mangiano carne, perché secondo me ha maggior ragione. Al di là del fatto che ritengo che ogni vita sia sacra, e quindi è sacra la vita di una preda, come di un predatore e come di una lattuga. Quindi anche lei è viva prima di tagliarla, anche la carota è viva, se no non si sarebbe sviluppata prima di tagliarla. Questo giusto per tirare sugli animi adesso una marea di insulti da parte di tutti. Vabbè, ma va bene, fa traffico. Andrea è felice di questo aspetto. Vabbè, no, quindi detto questo, non pensavo se stessi finendo ancora sulle carote, pensavo se ci stare anche il sedano, un abete, no, sto scherzando. Comunque sì, è vero. Assolutamente sì. Ti ricordavo intelligente. No, è che io non ho particolarmente il pollice verde, lo sai che non è proprio nel mio. Però rimane il fatto che è assolutamente vero e sacrosanto quello che stavi citando. Ma per ora io quello che dico è semplicemente: siamo molto felici della legge che non sia passata. La felicità, secondo me, deve essere però in questo momento diretta su un altro tipo di attività, vuol dire cerchiamo di non fare gli italiani su questo, del tipo quando succede qualcosa, tendenzialmente l'italiano è quello che chiude le gabbie dopo che sono scappati i conigli, come viene detto, no? I conigli non l'avevo mai sentita, avevo sempre sentito i buoi dalla stalla, ma va bene. No, c'è anche i conigli, lo sapevo. Comunque, saranno quindi cose del canavese. Ma non è cosa del canavese, ma comunque cerchiamo quindi di fare qualcosa di differente, quindi sarebbe bene che diciamo le persone preposte, gli specialisti eccetera, possano diffondere il loro sapere. Poi anche si è fatta una vera informazione, anche qua c'è un discorso ampissimo, ancora ci sono ancora alcuni educatori che pensano che è il capobranco, no, perché io maschio comando e dirigo, quindi su quello ci sarebbe un'informazione. Guardate, anche aggiuntiva da fare. È una tristezza infinita. Vabbè, come spunto prendo appunto questo post di ieri sera, proprio il leggere come talvolta le frustrazioni vengono proprio prese come arma, no? Diventano un'arma, le frustrazioni individuali. Questo è il buon lupo, citava quest'articolo, con delle immagini di animali mezzi mangiati. Ok, innanzitutto queste persone non avevano idea di che cosa fossero gli ibridi, di che cosa fossero gli inselvatichiti, non avevano idea di come fosse fatto un lupo. Quindi io mi chiedo, ah no, perché la mia legge è la legge della montagna, ma tu hai la macchinina, vai al lavoro al mattino, tutto quanto, non è la tua legge la legge della montagna. In una qualsiasi legge naturale esiste un equilibrio tra le cose. Dal momento che noi andiamo a togliere, come abbiamo fatto per molti anni, un predatore naturale, poi è ovvio che c'è il problema cinghiali, e quindi il problema cinghiali piuttosto che il problema caprioli. Il problema lo sto mettendo tra virgolette, non lo cito perché sto facendolo con le dita, ma non si vede ovviamente via audio. È ovvio, perché in equilibrio, in natura è tutto equilibrato. Nel momento in cui noi andiamo a togliere un anello di questa catena cede, e quindi c'è un esubero di caprioli che vanno a mangiare le vigne, e quindi un'altra scusa, prendiamo il fucile, abbattiamo tutti i caprioli, prendiamo un fucile, abbattiamo tutti i cinghiali, prendiamo un fucile, abbattiamo tutti gli scoiattoli perché sono importati e non sono i nostri. Guardate, è stato significativo parlare tempo fa con un pastore sardo, che su quale appunto stavamo discutendo con questa persona sull'improvviso che c'è stato qualche tempo fa, calo di popolazione di rapaci in Sardegna, tanto che alcuni tipi di rapaci sono stati reintrodotti dall'uomo. E lui mi ha detto: sì, li abbiamo ammazzati tutti noi perché gli davamo i bocconi avvelenati perché pensavamo che fossero loro a mangiarsi le nostre pecore. Nel momento in cui abbiamo scoperto che non erano loro a mangiare le pecore, abbiamo deciso di smettere di ammazzarli. Ecco. Bah, sì, guarda, ce ne sono tante. Sicuramente. Ma questo è sicuramente la legge di chi dice: ah, questo è il buon lupo, questo è il buon grifone, questo è il buon... Ma della serie, ma di che stiamo a parlare? Siamo ancora in un paese dove vengono sterminati i rapaci migratori, perché così vuol dire che mia moglie mi è stata fedele durante l'anno passato, se io riesco ad abbattere un falco. Non è solo ad opera italiana, questo te lo posso dire, è anche diciamo di... di altre culture. L'abbattimento, il provvedimento per l'abbattimento del lupo non è solo italiano, ma si parla anche in Germania e in altri posti, quindi diciamo che l'essere umano è l'essere umano un po' ovunque. Ma indubbiamente sì, però non è che mi consolo con l'aglietto, che nel momento in cui io vivo sul suolo italiano in questo momento e sul suolo italiano evidenzio questo tipo di atteggiamento, io combatto, ma combatto costantemente, perché è un'assurdità, perché non amo chi sloganeggia e chi fa del populismo e del malcontento una la sua... Populismo, che mi sa molto di politico, per cortesia. No, in generale, quello... Il governo fa una riforma e boh, tutti contro, tutti di qua, tutti di là. Ok, sicuramente è più difficile informarsi e capire e sviluppare una propria idea, una propria opinione in merito, soprattutto studiare. Esatto, cioè la cosa fondamentale sarebbe sicuramente darsi da fare e studiare un pochino. È più facile in generale seguire talk show alla televisione dove tutti si parlano sopra, uno urla sull'altro, l'altro urla sull'altro, che già solo quando accendo per arrivare a una delle nostre serie su Top Crime, praticamente, perché è l'unico motivo per cui guardiamo ogni tanto la TV, e vediamo ste robe di starnazzare costante, urla e tutto quanto, ti viene già solo il fatto di dire: ma come fa una persona a rimanere sano di mente ascoltando per 2 ore un intrattenimento, dovrebbe intrattenermi, un intrattenimento serale dove tutti urlano? Come fai a capire quello di cui stanno parlando? Non lo capiscono, semplicemente sì, gli piace perché si possono attaccare, esattamente come quelle bagionate dell'Isola dei Famosi o quant'altro, quindi è normale. Sicuramente già quello, insomma, già il fatto che ci sia litigi o robe di questo tipo già piace, no? Una volta c'era il pianto di caramba che sorpresa, adesso c'è il litigio, e il litigio fa sempre bene, insomma, è sempre divertente. Bah, detto questo, sicuramente diciamo gli aspetti su cui prestare attenzione sono tantissimi. Magari se anche tu sei interessato a questo tipo di argomento, magari prova a spegnere l'Isola dei Famosi e prova ad aprire un libro legato al comportamento del lupo e scoprirai delle cose sensazionali, scoprirai quante fesserie ci hanno raccontato il lupo solitario, il lupo cattivo, cappuccetto rosso, perché bla bla bla bla bla bla, e scoprirai qualcosa di differente, anzi una realtà completamente nuova. Come sapete, noi facciamo attività formative legate proprio alla struttura sociale del branco di lupi, quindi questo la dice lunga. E chi l'ha adattato, ha ottenuto degli enormi risultati e delle enormi prospettive proprio. Per dire una roba tipo enorme merrimi. Vabbè, che sembra una cosa un po' enorme merrimi, ma si capisce. Vabbè, detto questo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. E mi raccomando, informatevi. Sì, esatto. Per formare la vostra opinione, informatevi, studiate e leggete di chi con i lupi, con gli scimpanzé, con qualsiasi specie ci lavora, ci vive, ci condivide la propria vita. Esatto, internet non è solo per i social, ma è anche per informarsi, e diciamo di informazioni su internet se ne possono trovare tanti, magari non tutte verosimili. Allo stesso tempo il fatto di volersi informare da una parte o dall'altra è molto importante, o comunque c'è sempre la buona vecchia libreria, libri, vai, ti affitti un libro e te lo leggi, insomma, gli sfogli le pagine, che è sempre una cosa bella e piacevole, fa sempre una bella emozione. Detto questo, ci sentiamo la prossima settimana, vi auguriamo un buon fine settimana e al prossimo appuntamento. Alla prossima, ciao! E con questo la nostra puntata finisce qui, alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!